Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che torna su un lavoro fatto a più mani. Chi ci ascolta sa perfettamente il nostro interesse verso queste produzioni collettive, quei progetti capaci di mettere insieme anche diverse identità in un unico percorso, in un'unica visione. E allora non poter sfuggirci questa collana, Nuvola in Città, promossa da Lido Contemori e Giuseppe Ciarallo. Una collana, appunto, sono già 3 libri editi, ne parleranno loro stessi a Morena Moretti, che indaga sulle città italiane, descritte attraverso delle storie raccontate da famosi soggettisti e navigati fumettisti. Ma la parola a Morena Moretti e i suoi ospiti, ovvero sia Lido Contemori, Giuseppe Ciarallo stesso, per saperne di più. Ciao Lido Contemori e Giuseppe Ciarallo. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Parliamo con Lido e Giuseppe di un progetto di libri collettivi che la collana si chiama Nuvole in Città, è partito nel 2003 e tu Lido sei il coordinatore di questo progetto, quindi ci puoi spiegare anche brevemente di che cosa si tratta? Questo progetto nasce all'inizio del 2023 per Guida Editori, la collana è diretta da Marco Sarno, che è un giornalista della Repubblica, che è anche autore del primo album che abbiamo fatto, il primo album a fumetti che abbiamo fatto, cioè Chi ha rapito San Gennaro, che era ambientato a Napoli. Ho messo insieme una squadra di esperti, molto esperti, disegnatori, una quindicina, che fumettano il soggetto di uno scrittore, il primo appunto l'ha scritto Sarno. In poco più di un anno sono usciti 3 libri, sono libri collettivi, con tanti stili, ma miracolosamente questi stili si sono amalgamati. Gli altri 2 titoli, Milano Visionaria, che viene dal testo delle sorelle Martignoni, cioè da Elena e Michela Martignoni, che sono delle giornaliste emerite, e l'altro libro, l'ultimo in ordine di tempo, Passepartout, quello che viene dal testo di Margherita Oggero, che è una grandissima scrittrice molto molto nota. In sostanza è un giro d'Italia a fumetti, per ora da Napoli a Milano, a Torino, ma poi proseguirà negli anni secondo un progetto abbastanza ambizioso, queste Nuvole in Città, Nuvole si intende ovviamente il ballon, cioè il fumetto in sostanza. Città che non sono rappresentate in modo turistico ovviamente, ma sono storie creative, fantasiose, dove la dominante è l'ironia, la suspense, la fantasia. Giuseppe, tu hai curato la sceneggiatura dei primi 2 libri di cui ci parlava prima Lido. Come si riesce a sceneggiare tenendo anche conto che appunto le matite, gli artisti saranno tanti? È lo stesso procedimento, la stessa cosa, o hai dovuto pensare in modo diverso per farlo? Allora, c'è una cosa molto importante da dire, cioè è essenziale il fatto di conoscere le persone che poi interverranno. Quindi erano tutti artisti, disegnatori con i quali avevo già collaborato in passato e quindi in qualche modo ero dentro al loro stile, al loro modo di vedere il fumetto, il disegno, eccetera. È stata una sfida molto importante perché chiaramente ho dovuto mettere in condizione ognuno di loro di entrare totalmente nella storia, esprimerla seppur secondo il proprio stile, ma guardando a un lavoro complessivo che doveva essere in qualche modo omogeneo. Mi sembra che sia riuscito perfettamente, questo tipo di operazione sia riuscita perfettamente, anche visto, insomma, come diceva Lido prima, l'importanza e la grandezza dei nomi che hanno partecipato a questo progetto. Però c'è questo valore del lavoro collettivo in un'epoca in cui c'è molto individualismo, e quindi perché questa scelta? Lo chiedo a Lido, poi anche Giuseppe. Beh, intanto, come ha detto Giuseppe, giustamente è una questione di grande amicizia e grande conoscenza nel gruppo. Sono tutte persone legate da esperienze passate, soprattutto collaborazioni con Giornale Repubblica o altre riviste, giornali importanti che hanno fatto da cemento a questo gruppo. Quando è partito il progetto io non ho fatto altro che fare un po' di telefonate, mi hanno detto tutti subito immediatamente sì, perché erano persone con cui c'è una sintonia antica. A proposito di nomi, 7 di questi disegnatori hanno partecipato a tutti e 3 i libri, sia in veste di fumettisti che disegnano ognuno di loro un capitolo in bianco e nero, i capitoli sono 6, sia in veste di illustratori che fanno delle illustrazioni a colori che vanno fra un capitolo e l'altro. E i disegnatori sono, oltre me, che ho partecipato a tutti e 3, Gianni Allegra, che è un grande fumettista, vignettista, ha lavorato a lungo per Repubblica. Marco De Angelis è lavorato una 30 d'anni nella grafica di Repubblica e è uno dei più grandi illustratori a livello internazionale. Giuliano, vignettista storico, dal Male, poi insomma non c'è un giornale dove non abbia collaborato, attualmente dopo lunga militanza in Repubblica ora sta Marco Diele della Sera. Cecco Mariniello, che parte anche lui con gli Stati Uniti con Repubblica, poi ora investe di illustratore per libri per ragazzi, ma anche investe di pittore, ultimamente anche un illustre pittore. Maria Nardi è una delle più grandi illustratrici che abbiamo in Italia, se non la più grande, ma molto nota anche a livello internazionale, la trovate su Domani. Manlio Truscia, che è un fumettista storico, un grandissimo fumettista classico che ha lavorato a lungo per case editrici importanti nell'ambito del fumetto appunto classico. A seguire invece quelli che hanno partecipato non a tutti e 3 i libri, ma per ragioni varie, nel senso che ognuno ha scelto, anche se gli andava bene il progetto, se rientrava nelle sue corde, oppure anche per gli impegni, se ce l'aveva oppure no. Leo Magliacano ha lavorato ai primi 2 libri in veste di fumettista e Leo lavora per esperienze editoriali anche internazionali, veramente ha collaborato con grande piacere a questi primi 2 libri. Luca Caronti ha lavorato nel secondo. Luca è un grande illustratore, anche in veste di fumettista ha fatto un lavoro straordinario, il secondo libro, quello su Milano Visionaria. Daniele Serra, a proposito, ha fatto la copertina di Milano Visionaria, quindi il secondo libro, quello su Milano. Daniele Serra è un illustratore di fama internazionale, lui, per dire così, en passant, illustra libri di Stephen King, di Lost, il livello veramente cosmico, insomma è uno dei più bravi illustratori che stanno sulla Terra attualmente, per cui è stato un grande onore insomma ospitare la sua copertina nel secondo libro Milano Visionaria. Alessio Atrei è un vignettista e fumettista che lavora per giornali regionali, ha anche grosse capacità appunto di fumettista, ha fatto un bellissimo lavoro per il terzo libro, questo su Passartout, che tratta di Pietro Micca che torna in vita, poi diciamo un po' meglio anche i contenuti dei libri magari. E nell'ultimo libro abbiamo imbarcato anche Giancarlo Malaguzzi, un altro fumettista che ha attraversato un po' la storia del fumetto, e Miles Manara, che è la sorella di Cotanto Milo, bravissima peraltro, Luca Salvagno, che anche lui è un nome conosciuto un po' dovunque, anche a livello oltre che italiano, per dirne una, stava nello studio di Iacovitti, insomma, è una diego di Iacovitti. E per chiudere, sempre il terzo libro, abbiamo imbarcato anche un altro che viene dall'esperienza del fumetto più, diciamo così, davvero di mestiere, di fumettista, perché alcuni degli altri erano illustratori che poi hanno fatto il fumetto. Questi invece sono proprio veri fumettisti, come Marcello Toninelli, molto conosciuto per la sua serie su Dante Alighieri. Spenderei due parole per vedere i contenuti di questi libri. Il primo, che ha rapito San Gennaro, racconta appunto del rapimento di San Gennaro con una suspense, con una città che è Napoli completamente stravolta da questa vicenda. È una storia molto divertente e molto ironica. Il secondo, Milano visionaria, è, come dice il titolo, una città dove appaiono dei fantasmi, dei grandi del passato, da Leonardo da Vinci fino a Giuseppe Verdi, passando per il Manzoni, insomma appaiono questi fantasmi a queste due sorelle, che poi non sono altro che l'alter ego delle autrici, Elena e Michela Martignoni, che raccontano, cioè, questo excursus da bambine fino a ora. Il terzo, Passepartout, è ambientato invece a Torino, racconta la vicenda di Pietro Micca, un Pietro Micca che torna in vita e si spegne tutti i colori perché capita in una città ovviamente completamente diversa rispetto a quella sua. Lui torna in vita perché un fulmine lo riporta in vita, e qui anche questo, il taglio è sempre lo stesso, perché questa collana è una collana dove l'ironia e la fantasia dominano, cioè questi libri hanno questa caratteristica, questo filo rosso che li accompagna, cioè l'ironia e la fantasia. L'autrice, che ha fatto il soggetto, è la Margherita Oggero. In questo caso lo sceneggiatore è stato invece Pierpaolo Andriani, che è uno sceneggiatore che viene dal cinema e dalla televisione, che ha portato avanti in maniera egregia il compito di fare in modo che il testo dell'Oggero diventasse poi fumettabile, perché la difficoltà per realizzare questa roba è proprio questo: anche la bravura dello sceneggiatore conta, perché il disegnatore ovviamente si confronta con il testo che è già stato prelaborato dallo sceneggiatore. Il meccanismo è sempre questo, fortunatamente è un sistema rodato, siamo in grado appunto di fare 3 libri in un anno, vuol dire che questa squadra, professionisti che sanno fare, sono abituati a lavorare per i quotidiani, per cui è ovvio che sanno rispettare i tempi, ma conta molto anche in che misura c'è affiatamento. Ma devo dire che gli scrittori, da Marco Sarnolo, che ha capito San Gennaro, a Elena e Michela Martignoni con Milano Visionaria, alla Margherita Oggero con Passepartout, hanno collaborato gruppo, hanno contribuito, e gli sceneggiatori hanno fatto da intermediari e i disegnatori hanno disegnato, secondo me egregiamente, e sembra che sia così perché questi libri stanno andando bene, stanno funzionando bene. Giuseppe, per tornare alla domanda di prima, cioè il valore del lavoro collettivo, è un'esperienza che ti ha convinto e soprattutto è ripetibile anche per altri settori dell'arte? Non è che mi doveva convincere, io sono un ragazzo degli anni 70 che crede fortemente nell'esperienza collettiva. Sì. Una persona che dalle lotte degli anni 70 fino a metà degli anni 80 ha vissuto molto male quella caduta nell'io che ha devastato un'intera nazione anche dal punto di vista culturale, e quindi vedere rinascere, e la prima esperienza che ho potuto avere fortunatamente è stata quella con Stefano Tassinari e la rivista Letteraria. Cioè ritornare dopo un'ubriacatura dell'io a una visione collettiva delle esperienze culturali, eccetera, per me è stato di nuovo ricominciare a respirare. Per cui da Letteraria in poi, esperienza che poi ho portato avanti anche con altre riviste di letteratura sociale fino a Zona Letteraria, cioè quindi io mi tuffo proprio sempre con entusiasmo in ogni esperienza che abbia come sottotesto appunto una visione collettiva. Poi partecipo tantissimo a tante raccolte, racconti delle collettane, dei racconti collettivi, eccetera. Io cerco di esserci sempre perché credo fortemente. E quindi anche questa esperienza di Nuvole in Città mi ha visto, almeno nei primi due numeri, partecipare con un entusiasmo pazzesco, perché, ripeto, sono convinto che ogni artista che vive da solo, chiuso nella sua torre d'avorio, sta facendo un lavoro sterile. Dobbiamo sempre lavorare, dobbiamo diffondere le idee, dobbiamo mescolare il sangue, dobbiamo mischiarci, perché da questa esperienza collettiva non può che nascere qualcosa di veramente bello, veramente grande e veramente duraturo. Concordo in pieno, l'atteggiamento è identico, è proprio lo spirito con cui è nata questa collana. Guida Editori, che è una casa editrice di Napoli, che fino a quel momento non aveva pubblicato fumetti, no? Anzi, aveva pubblicato un paio, ma in modo estremamente locale, ha dato la possibilità di far uscire questi tre, ha creduto, almeno per ora, ci ha creduto in questa ipotesi di collana. Sono previsti altri libri prossimamente, uno su Bologna, un altro su Parigi, Bergamo e la Serbia collegati, sono città in quel caso multiple, ci sarà Genova, ci sarà Roma, ci sarà Firenze, ci sono già gli scrittori all'opera per ognuna di queste città, ovviamente se ne facciamo due o tre all'anno la collana può andare avanti un sacco di tempo, cioè si spera che i lettori diano riscontro, sembra che per ora il gioco funzioni, almeno a quello che sappiamo. Darei un'indicazione, cioè per i curiosi, gli appassionati, ma anche i collezionisti che volessero capirne un po' di più, perché questi sono anche album da collezione, quanto che sono grandi, formato a 4, stampati su carta buona, carta patinata, copertina bella come si deve, insomma non è fatto al risparmio, sono libri anche da collezionista, almeno così è sembrato quando li abbiamo presentati nei festival dei fumetti, il festival letterario, siamo stati al Salone del Libro di Torino, il libro è stato presentato in pompa magna lì al Salone, continuiamo con questa logica, come dicevo, però i curiosi possono andare sul nostro canale, abbiamo un canale YouTube, così vedono un po' i video trailer, capiscono un po' meglio di cosa stiamo parlando, e su YouTube dovete cercare il canale dei Nuvolisti, Nuvolisti in quanto che sono quelli che fanno le nuvole. Su YouTube, se andate a cercare Nuvolisti, escono i video trailer dei nostri libri e lì ci sono degli spezzoni, piccole parti di contenuto del libro, dove si riesce a capire il senso di quello che stiamo dicendo ora in sostanza.